Convocati di Carlo Genta. Caro Marotta, ma tu vuoi pagare la clausola del scissorio? Io non ci penso nemmeno. E allora dillo. E così te ne vai, e non ti importa niente che me. Che non c'è trattativa, ecco, non è possibile trattare, quindi basta. Quindi non siete intenzionati a pagare la clausola del scissorio, no. Questo si può dire? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Se non si può trattare, non si può trattare. Chiuso l'argomento. E così te ne vai, è già deciso come a partire. Bisogna anche vedere se Higuaín vorrà tradire questo amore che sembrava avesse giurato ai napoletani. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. È un tradimento a se stesso, perché uno non va sotto la curva che rappresenta da sempre i colori e l'anima di una squadra, figuriamoci a Napoli, non va a intonare nemmeno la canzone dell'innamoramento, e quindi sarebbe veramente un controsenso. È un tradimento a se stesso. Qui si parla di soldi, amore, corna, tradimenti, innamoramenti, c'è dentro di tutto. È un piacere per me parlarne con il signor Massimo Mauro. Buongiorno, ma ciao Massimo. Ciao. Io sono in un posto che non tradirò mai. Cioè? La Calabria. Sono a Staletti, in un paesino straordinario che fa delle granite e sbargiolli straordinari. E questo neanche tutti i soldi del mondo me lo farebbero tradire. È solo ragione, Massimo. Mi fa venire solo invidia perché io sono in via Monterosa, sole 24 ore. Sto parlando, pensando, invidiando. Senti, tradimento, corna, denari. In questa storia dicevamo c'è di tutto. Ma chi ha fatto l'affare? I giocatori a queste cifre si vendono e non si comprano, secondo me. Anche secondo me. Cioè, sono delle cose pazzesche. Non ci sono più i soldi per garantire lo stato sociale in Inghilterra, e Manchester United forse compra Pogba a 120 milioni di euro. E la Juve compra Higuaín a 94 e passa, più lo stipendio in 4 anni diventano 160-170 milioni di euro. Non lo so, è chiaro che dal punto di vista tecnico non c'è discussione, cioè non stiamo a discutere del giocatore o le operazioni di mercato dal punto di vista calcistico, ci mancherebbe altro. Però siamo arrivati ad un punto esagerato, credo. Altra questione, ho sentito adesso questo refrain di Laurentiis su Higuaín, come si fa a dargli torto? Io ricordo che fui cattivissimo in TV con Eto'o, quando un mese prima baciava la maglia dell'Inter e un mese dopo è andato a giocare in un campionato inesistente soltanto per i soldi. Certo. Almeno un giocatore dovrebbe avere il riguardo proprio nei confronti di quella maglia che in quel momento sta indossando e non baciarla, quantomeno. Però se Higuaín era Masaniello, era il capopopolo, andava a cantare quella canzone d'amore sotto la curva, che altro avrebbe dovuto fare? È anche vero che nel corso d'estate suo fratello ha detto: nel contratto non lo prolunghiamo, quindi era ora o mai più e per un sacco di soldi. No, la cosa che mi viene da dire è che De Laurentiis però non ha mai, come dire, non si è mai impegnato, pur avendo fatto delle cose straordinarie al Napoli, no? Ha risanato, ha fatto risultati, è arrivato a lottare per lo scudetto, a contenderlo alla Juve, però non è mai andato a piedi pari e dire investo davvero per convincere tutti i giocatori a rimanere, no, che non significa spendere 90 milioni di euro, no? Ma significa per esempio fare l'operazione che ha fatto con Koulibaly. Prendere dei giocatori importanti e farli diventare bravissimi. Certo. Ecco, l'unica cosa forse è questa che si può dire, che Higuaín merita di giocare in una squadra che parte per vincere Champions e campionato, e certamente la Juve adesso, se non li vince, ha fatto un buco nell'acqua, perché fare il mercato che ha fatto la Juventus e non vincere l'anno prossimo sarebbe una tragedia. E non è ancora finita, perché si parla di Mate. Comunque la Juventus, secondo me, un centrocampista serve, viste le precarie condizioni costanti di Khedira, visto che Marchisio deve rientrare dall'infortunio. Credo che questa squadra rinforzata, secondo me, nonostante la partenza di Pogba, non so se sei d'accordo, dovesse partire Pogba, comunque, stando così le cose con un altro centrocampista e con Higuain, secondo me la Juventus sarebbe più forte. Questa è la mia mio parere. Sono d'accordissimo, guarda, hanno fatto, ripeto, dal punto di vista calcistico, hanno fatto delle operazioni fantastiche, perché anche Piani, cioè, indebolisci la Roma e tira forti. Higuain indebolisce il Napoli e tira forti. Piazza mi sembra un gran giocatore. Pogba, 120 milioni di euro, lo prendo con la carriola, lo porto a Manchester piedi. Sì. Cioè, onestamente, hanno fatto cose straordinarie. Quindi la Juve, ripeto, si è soltanto data pressione infinita, perché l'anno prossimo, se non vince, voglio dire, è una tragedia. Beh, per Allegri, Massimo, per i giocatori. Per lo scudetto a me sembra sia fuori discussione, mi sembra la Mercedes contro tutte le Carlo, altre il fuoco alla Formula 1. Lo devi vincere. Insomma, non è detto questo, perché guarda, poi le cose di campo e di spogliatoio sono un po' diverse da quelle che succedono in agosto. Cioè, se le cose poi non vanno bene, tu hai 6 giocatori nuovi, sì, che guadagnano un sacco di soldi, sì, che, no, che magari prima mettevano la gamba fino a non so cosa, adesso invece sono quelli più pagati. E per risolvere i problemi poi hai un ambiente completamente nuovo, se ci avrai dei problemi. E quindi non è così semplice. Non è così scontato. Che Allegri è bravissimo. Allegri è molto bravo. Ha dimostrato veramente di essere bravissimo in questi 2 anni, e quindi ha Buffon accanto per questi problemi. Insomma, potrebbe essere davvero un anno straordinario per la Juve. Cioè, Massimo, ti chiedo ancora questo. Nel ranking delle regioni d'Europa, perché in tutta Europa è così, sono due squadre egemoni e tutte le altre fanno fantapezzeria. È così in Francia, in Spagna ci sono le due che conosciamo, con l'aggiunta dell'Atletico Madrid, che può essere il modello per tutti gli altri. In Germania c'è il Bayern, in Inghilterra i due Manchester, e poi vediamo, il discorso è un po' diverso, perché i soldi ce li hanno tutti. In questo gota la Juventus a che livello la metti? No, io la metto prima, perché per quello che dicevi anche tu, cioè, perdi Pogba e fai un centrocampo con questi qui, e davanti c'è Higuain insieme a Dybala, dietro addirittura Benassia e Dani Alves, esperienza, fisicità, e non hai perso niente di quello che avevi prima, cioè, non puoi che metterla al primo posto. Cioè, con Barcellona, Real Madrid, sì, e Bayern Monaco. Sì, assolutamente sì. E io non sottovaluterei il Chelsea, secondo me, perché è vero che ancora si deve fare tutto, ma Conte, a mio avviso, in quel campionato ha la maniera migliore da allenare. Sì, cioè, chiaro. Poi allena la fisicità, la grinta, la determinazione. In quel campionato, secondo me, potrebbe fare un esplorato. Non so in Champions, Champions non la fa, almeno per quest'anno, poi vediamo. L'obiettivo è qualificarsi. Certo. Grazie, professore. Certo. Grazie, Carlo. Grazie, Massimo. Grazie, Mauro. Ciao, buone vacanze. Soprattutto. Se vieni in Calabria, passa dal Giorgio. Ma non c'è dubbio. Un saluto a tutti i tuoi compagni di vacanza da Radio 24. Ciao, Massimo. Ciao. Allora, con Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzone in redazione, ci fermiamo un attimo per il traffico. Intanto voi chiamate. 800 24 00 24. Mi sembrano questi gli argomenti. Tra un po' andremo a guardare in casa dell'Inter, invece, dove la situazione è molto più fumosa. Poi sposteremo la prospettiva dalle romane, perché sono tutte lì a guardare dal basso la signora che diventa sempre più forte. Avremo anche la Formula 1, avremo il ciclismo, avremo tutte queste cose. 800 24 00 24 è il numero verde. Lo avremmo salutato, lo avremmo ringraziato. Fatto così è come scappare quando uno scappa di notte. Tutti convocati. Convocati. In realtà parlo con Mancini spesso, parlo di calcio, quello che possono essere alcune sensazioni sue. C'è lì il presidente, stanno parlando fra loro, adesso arriverò, magari da domani sarò coinvolto anch'io in questo tipo di incontri, di discussioni, però per quanto mi riguarda non mi risulta nulla di particolare. Col mister si parla di calciatori, di mercato, si parla dell'incedibilità di Cardi, si parla di qualche trattativa per qualche calciatore da portare, questo sì. E che abbiano parlato pare che sia sicuro. Onestamente abbiamo avuto anche noi un contatto con Napoli, però la posizione dell'Inter è molto chiara. Non è una questione di cifre, è una questione di trattativa. Non c'è semplicemente una trattativa, perché l'Inter si tiene Icardi, così come si tiene molti altri dei migliori calciatori di questa squadra. La nostra idea è quella di rinforzare l'Inter, e l'Inter si rinforza mantenendo Icardi e non cedendolo, indipendentemente dalle cifre. A noi non interessa come Napoli può offrire. Napoli si è privata del proprio centravanti perché aveva una clausola. Icardi non ha una clausola, ci vuole la volontà dell'Inter. La volontà dell'Inter è molto chiara: Icardi rimane all'Inter. Questo era Pier Ausilio, che così ha parlato oggi. Dunque, Napoli lo ha cercato, il contatto c'è stato, Icardi è incedibile, non si muove. L'Inter è dall'altra parte dell'oceano, e dall'altra parte dell'oceano Mancini fa sapere, a domanda: ma venderete Icardi? Risposta: chiedere al presidente. Completerete la rosa con Candreva? Risposta: chiedere al presidente. Questo è il, sembra il clima in casa Inter, con la situazione di Mancini, la posizione di Mancini, che sembra tutt'altro che salda, tutt'altro che sicura, tutt'altro che definita. È un Mancini certamente esautorato dai poteri che ha esercitato in tutta la sua carriera, compresa quella interista, cioè quella delle telefonate ai giocatori, del manager all'inglese, dell'uomo mercato. Fabrizio Biasin per Libero sta seguendo passo dopo passo questa fumosa vicenda nerazzurra. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie a te. Che idea ti sei fatto e che ti stai facendo? Ma mi sembra tutto abbastanza chiaro, cioè non ci sono posizioni nascoste. Ormai la volontà di Mancini di cambiare le cose la vediamo ogni qualvolta rilascia una dichiarazione. È infastidito, fa i capricci, perché di capricci si tratta, e ha fatto capire a tutti quanti che così lui non vuole andare avanti. Dall'altra parte c'è una società che non ha bisogno di un problema in più in questo momento. La stagione iniziata, se il tuo allenatore non è quello che risolve i problemi, ma è quello che li porta sul piatto, evidentemente non si può andare avanti così. Allora, voglio chiederti due cose. La prima, ma proprio andandoci giù piatti, quante possibilità ci sono che Mancini lasci l'Inter? Ma secondo me in questo momento sono superiori al 50%. Io ho ascoltato molto attentamente questa mattina Ausilio, concordo su tutto quello che ha detto, tranne sulla questione allenatore. Secondo me anche Ausilio intimamente sa che c'è un problema, perché Mancini, abituato a un certo tipo di lavoro e di atteggiamento, non vuole scendere tra noi comuni mortali, cioè non vuole fare per quello per cui è pagato l'allenatore. Vuole fare altre cose, vuole fare l'allenatore più quello che comunque si fa costruire la squadra che vuole lui, no? Sì, vuole fare tutto quello che ha fatto negli ultimi due anni, non portando i risultati che aveva promesso. E allora evidentemente anche lui dovrebbe fare un passo incontro alla sua società e limitarsi a fare il tecnico di una squadra che comunque già così è competitiva, perché lui si lamenta facendo capire che con questa rosa il terzo posto è complicato, sì. Ma l'anno scorso con una rosa meno competitiva, perché nel frattempo sono arrivati Banega, Erkin e Ansaldi, lui aveva praticamente promesso il terzo posto, e allora evidentemente c'è un difetto di comunicazione. Sì, no, ma poi lui ha detto chiaramente: noi abbiamo bisogno di questi giocatori per arrivare non a livello della Juventus ma a livello della Roma. Queste sono state le parole, sì, di Mancini, le richieste di Mancini. Chi potrebbe arrivare per lui? Si legge De Boer, si legge Bielsa, si legge Leonardo, ma... si legge, se hai letto, Di Prandelli. Sì, in questo momento sai c'è una rosa di possibili alternative, io credo nessuna di queste vagliata. Cioè noi sappiamo che a Tuir piace molto De Boer da tempo, sappiamo che c'è una possibilità Leonardo, sappiamo che forse c'è stata una telefonata tra Zanetti e Bielsa, ma non abbiamo certezze. Abbiamo certezze sul fronte Icardi, medie certezze, nessuna sul possibile sostituto di Mancini. Io credo che si cercherà di far tornare tra noi Roberto Mancini, se lui continuerà a vivere sul pianeta manager, e allora si cercherà un'alternativa. Sì, certezza sul fronte Icardi, tu dici, Icardi, valgono le parole di Ausilio, nonostante i quattrini messi sul piatto da Napoli, non si muoverà di lì. No, io credo assolutamente che non si muoverà per mille motivi, i più importanti sono che sarebbe assurdo andare a risolvere il problema che si è creato a Napoli, cioè in casa di una diretta avversaria, e soprattutto creandosi un problema nell'anno in cui non hai più la necessità di portare in cassa dei soldi. Se l'Inter è riuscita a trattenere questo giocatore l'anno scorso, subito dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere, non si vede perché dovrebbe privarsene ora, che c'è una proprietà almeno formalmente più solida. Certo, Fabrizio, un'ultima considerazione. Allora, mi domando chi è l'interfaccia della nuova proprietà in Italia. Perché io fossi stato nel gruppo cinese Ford che ha preso l'Inter, prima cosa, ma questo vale per tutti, vale per ogni investitore straniero che arriva e mette una montagna di soldi, potrebbe valere anche per il Milan se un giorno casomai dovesse cambiare proprietà. Per prima cosa io prenderei un grande manager italiano, ti faccio un nome, Leonardo, l'abbiamo fatto prima. Sì. Prendo il signor Leonardo e gli dico: tu sei il mio rappresentante in Italia, conosce il calcio italiano, conosce i meccanismi che governano il nostro pallone, e dunque secondo me la prima mossa da fare, ancora prima dell'allenatore e dei giocatori, prendi il tuo uomo forte. E Ausilio in questo momento non c'è un uomo forte, arriverà? La tua è una legittima considerazione, se pensiamo che non c'è solo l'allenatore in scadenza, e secondo me in questo senso avrebbe molto senso, ma anche il direttore sportivo Ausilio è in scadenza 2017, e io credo che per quello che ha fatto vedere in questi anni meriterebbe una riconferma. Ma se il problema non lo pone lo stesso Ausilio, è perché è sereno per quello che ha fatto e per quello che potrà fare. Detto ciò, è vero, ci vuole qualcuno che possa metterci sempre la faccia, bravo, non avendo paura, esatto, di dire la sua, bravo, perché in questo momento chi parla non sa chi sta rappresentando. Bravo, perfetto, ci vuole un plenipotenziario che possa parlare non solo a nome suo, ma a nome di una proprietà che è fatalmente lontana e all'oscuro spesso delle storie del nostro mercato. Fabrizio, ti ringrazio, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere, ciao ragazzi. Ciao Fabrizio Biasin, da Libero. Dunque, abbiamo fatto un po' di luce, acceso una lanterna sulla questione dell'Inter. 800 24 00 24, il numero verde, ci sono già Matteo e Marco. Matteo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dica. Senta, beh, io chiamo innanzitutto in rappresentanza di un gruppo, noi ci chiamiamo Max Tattica, siamo una chat su WhatsApp molto attiva che monitoriamo da Juventini il mercato giorno per giorno. Allora l'affare l'ha fatto la Juventus o l'ha fatto il Napoli? Ma l'affare l'ha fatto De Laurentiis, anche perché il fatto che De Laurentiis parli di tradimento... Vabbè, questo fa parte del gioco, è un gioco di ruolo. Volevo far notare una cosa che nessuno, perché sa, nei dettagli c'è il diavolo, no? Uh-huh. Quest'anno, quando Higuain prese una pausa di due giornate dal gol, sì, De Laurentiis se ne uscì con quel chilo di troppo. Sarà che io peso 120 kg, allora mi sento coinvolto. Però, sai, in quel caso non fu vero amore tra il presidente e un calciatore che aveva già fatto 20 gol in un girone d'andata, accusarlo di un chilo, fossero stati 5, sì, come se non fosse un professionista. Fu un'uscita un po' così. Poi De Laurentiis, Carlo, l'amore, sai, le donne, uno è sposato, giura amore eterno, infinito, poi ne prende un'altra. Sì. E poi, voglio dire, è un cambia ragazzo di Buenos Aires di 28 anni, non ci dimentichiamo che questi sono ragazzi di 28 anni, hanno un procuratore, un fratello, un entourage, La moglie che fa il procuratore nel caso di Icardi. che... In quel caso si aprirebbe il discorso Mancini, che magari i cinesi che sono arrivati hanno trovato acquisti necessari proprio alla Montoya, alla Shaqiri, alla Melo, alla Eder. Hanno visto quanto il manager Mancini è costato alle casse dell'Inter, hanno detto vabbè, allora facciamogli fare solo l'allenatore. Sì, però rimane sempre il discorso del plenipotenziario che manca, è una figura di riferimento che insomma è determinante. Allora Mancini, che quello che dice a Mancini tu fai l'allenatore, quello che dice a Mancini tu stai tranquillo, questo lo possiamo comprare, quello no, è questo che secondo me crea un'enorme confusione. Matteo, grazie, buona chat. Marco, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Monza. Ascolti, sì, io sono rimasto disgustato, sì, stamattina da una radio di cui non faccio il nome, uh-huh, in cui accusavano la Juve di aver ammazzato il campionato e di aver fatto uno sgarbo al Napoli. Ma scusatemi un secondo, la Juve fino a 7, 8, 9 anni fa, giustamente o ingiustamente, è stata praticamente ridotta sull'asse. Si è rifatta, penso in maniera onesta, adesso c'ha i soldi, è stato chiesto al Napoli, al signor De Laurentiis, volete darci i guai che vi diamo anche questo? Lui ha fatto il buffone come al solito, questo ha detto va bene, ce lo prendiamo perché tu sei un asino. No, ma non... Dove sta il punto? No, allora Marco, il punto sta in questo. La Juventus ha tutti i diritti di ammazzare tutti i campionati che vuole, di costruire la squadra più forte che c'è, tocca agli altri tenere il passo. È l'unica squadra italiana amministrata, lo ripeto tutte le volte, in modo contemporaneo. È una squadra che ha grandi introiti anche e soprattutto dalla Champions League, insomma nello stadio del nostro campionato è una corazzata. Non può essere un'accusa legittima quella di voler ammazzare il campionato. Certo, va da sé che un qualunque campionato di un qualunque sport che sai già come va a finire, dalla Formula 1 e sai già che vincerà la Mercedes, si tratta di capire quale dei due, ma sarà ancora Hamilton, a qualunque sport, ci sono state le grandi egemonie, ad esempio nel basket di Siena, le grandi egemonie distruggono l'interesse, ed è per questo che è legittimo dire mi piacerebbe vedere un campionato equilibrato. Quando era equilibrato, quando è stato equilibrato il campionato che abbiamo appena vissuto, eravamo tutti contenti e pensavamo e dicevamo, tutti osservatori neutrali, ma speriamo che questo duello arrivi fino in fondo. Poi fino in fondo non è arrivato il duello tra Juventus e Napoli. Secondo, la Juventus non ha rubato nulla, cioè per Higuain c'era una clausola rescissoria, l'ho spiegato anche ausilio a proposito di Icardi. La Juventus è andata lì, l'ha pagata e si è presa il giocatore per un sacco di soldi, e io credo che l'affare l'abbiano fatto entrambi, Napoli compreso, perché quei soldi sono irrinunciabili, secondo me non si può rifiutare, comunque fosse, comunque sia, comunque vada, una quantità di soldi del genere per un giocatore. Borsa, torniamo. Guarda, adesso io cado dalle nubi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Calcio di questo genere qui, in un mondo dove poi bisogna andare avanti, bisogna essere pronti a cambiare, come si dice sempre, a cambiare destinazione, vuol dire chiudere una porta, sì, ma aprirne un'altra, perché sono state accontentate tutte le componenti, per cui proprio in questo caso qui la Juventus in precedenza è stata fra virgolette costretta a fare delle cessioni, perché a volte avere un mercato vuol dire alzare le insidie che poi uno possa essere sul mercato, perché c'è da girare dei numeri e c'è da girare delle possibilità, e la Roma si è sempre fatta trovare pronta in quest'ultimo periodo. Questo l'avrete riconosciuto, è Luciano Spalletti che usa lunghi giri di parole. Il senso di tutto, però, si può riassumere tutto, ad esempio nel titolo di Repubblica: la Juve investe e gli altri si arrangiano. Pagina 37. È vero, insomma, tra le grandi è così. Milan e Inter sono lì nel limbo. Il Milan è tornato alla vecchia abitudine degli svincolati e potrebbe prendere il 33enne Arbeloa, ex Real Madrid, e Vangioni, 29enne argentino, entrambi a parametro zero. L'Inter non si sa, abbiamo provato a capire qualcosa prima. Icardi non si muove, dice ausilio. Mancini rimanda ogni domanda al presidente. Gli chiedete una cosa, chiedetelo al presidente. Hai sete, chiedetelo al presidente. Questo è il clima in casa Inter. A Roma invece, Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io penso che la Roma, da questo passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus, sia quella che soffre di più, perché in pratica si era portata la Juventus, e sicuramente, a meno che non lo so, impazziscano e non riescono a gestire questi soldi, si rafforzerà anche il Napoli. L'Inter, per esempio, a me, io capisco che nell'Inter manchi la chiarezza, perché è vero che è rappresentata da Toglier, che il consigliere di Toglier è addirittura Moratti, Mancini, sappiamo cosa, che momento sta vivendo, però l'Inter, nel momento in cui prende la Candreva, sono comunque una squadra più o meno completa. Chiedete al presidente, a domanda su Candreva Mancini risponde, sì, vabbè. Prenderete, diciamo, Candreva, chiedete al presidente, Icardi rimane, chiedete al presidente. Su Candreva c'è questo balletto con la Lazio, sono 4 milioni di differenza, se non ricordo male, 24 la richiesta laziale, 20 il tetto massimo posto da nuova proprietà per giocatori che non siano più verdissimi come età, e dunque siamo lì a, in mezzo al guado. È vero, però ho letto anche le dichiarazioni di Ausilio. E Ausilio, io tra l'altro, è uno che si è mosso molto bene quest'anno. Banega l'ha preso lui, per esempio, sì. Quindi bisogna fargli i complimenti. E Ausilio già un po' lo considera un uomo suo. Tra l'altro, la Lazio deve vendere, per cui può darsi anche che alla fine sia costretta a scendere lo Tito. Però dico, l'Inter più o meno come squadra, non come società, perché la chiarezza, abbiamo detto, non c'è. C'è. Alla Roma, pochi giorni no, perché comunque il preliminare di Champions dovrebbe essere il 16 agosto, alla Roma mancano ancora due difensori. Sì. Ecco, la situazione è questa. Nel momento in cui la Roma avrà questi due difensori e Spalletti potrà lavorare su di loro, perché ricordiamoci che la difesa sarà quasi completamente nuova, allora la Roma sarà una squadra completa, ma fino a quel momento no. Cioè, in questo momento, Roberto, la situazione è questa: al netto delle trattative di mercato, Juventus là in alto, irraggiungibile per tutte, fa il Paris Saint-Germain della situazione. Dietro vedi un Napoli che comunque, utilizzando gli investimenti per Higuain, qualcosa potrà rinforzarsi in qualche maniera, come poi ne parliamo. La Roma invece è rimasta stabile, quanto a quelle dietro sono le solite, no? Mi sembra che la griglia sia questa. Sì, più o meno questa, però dico che la Roma ha perso Pjanic, questa è Pjanic. Una perdita grossa, e dietro ancora ci sono molti interrogativi. La Roma mi sembra, non ti dico sullo stesso piano dell'Inter, perché l'Inter il problema in questo momento è societario, mentre la Roma semmai è tecnico, ma io direi che più o meno siamo lì. Sì. Oppure bene che vada, la situazione è quella dell'anno scorso: prima Juventus, secondo Napoli, terza Roma. Sì. E quindi Roma di nuovo ai preliminari. Sì. Roberto, fossi nel Napoli, perché questo secondo me è uno dei punti più interessanti. Allora, posto che Icardi non si sposta da Milano, l'ha detto Ausilio, blindato, ha confermato che c'è stata questa offerta del Napoli, questo se ne è parlato, è tutto chiaro. Napoli ha offerto una quarantina di milioni, l'Inter ha detto no perché è incedibile, qui clausole rescissorie non ce ne sono. Può aver ragione qualcuno che dice ma puntiamo sul colpo ad effetto, anche un po' populista, andiamo a prendere Tevez magari in aggiunta e magari oltre a Tevez, Balotelli per completare questo attacco con Gabbiadini e Insigne, che ovviamente non si muoveranno. No, allora, lì c'è da dire che secondo me i nomi non servono a niente, i nomi servono per 5 minuti per accontentare la parte più fragile della tifoseria. Sì. Io dico che l'Inter deve approfittare, il Napoli deve approfittare per fare la squadra. C'è per esempio, non lo so, un centravanti che a me piace non molto, ma moltissimo, che si chiama Bacca. Che già me lo immagino a sfruttare i cross di Insigne, Cagliacone e Mertens, i passaggi di Higuain. Io penso che Bacca sarebbe l'ideale. Mi piace molto Zazza, però non lo posso dire perché altrimenti sembra che ci sia stata la trattativa. Sicuramente possono prendere un terzino destro o un altro stopper, un centrocampista. Il Napoli può uscire veramente forte. Io una cosa però non capisco. Ma perché solo adesso il Napoli cerca il sostituto di Higuain? Quando tutti noi che viviamo in questo ambiente sappiamo da almeno 2 mesi che la Juventus lo vuole. Sono operazioni che non fai dall'oggi al domani, sono operazioni lunghe, complicate. Anche la storia di Pogba non mi viene a raccontare che è nata durante l'Europeo. No, guarda, io mi rifaccio a quello che sapevo io, ovviamente. Sì, 2 mesi fa, io ho detto Pjanic alla Juventus e che la Juventus voleva Higuain. E che Pogba sarebbe andato al Real, quindi avevo sbagliato, ma in quel momento era il Real che si faceva sotto, no? In maniera molto concreta. Ma se lo sapevo io, sapevo anche di una trattativa della Juventus che aveva messo i soldi più Zazza, che gli era stato risposto no, mettete anche Sturaro, e la Juventus aveva detto no, eccetera. Lo sapevano tutti, perché non potevo saperlo certo solo io, no? Sì. Con dei messaggi dall'interno della Juve. Lo sapevano tutti, ma in 2 mesi non trovi un centravanti. Non lo so, mi sembra tutto molto cinema, molto cinematografico. Molto cinematografico, compresa l'offerta, ma su questa chiedo il copyright. Ho letto oggi che De Laurentiis ha provato a convincere la signora Vandanara offrendone una parte nel prossimo Cinepanettone. Questa idea esce da Radio 24, esce da Giorgio De Luca. Tifoso del Napoli? Certo. Okay. No, non io, De Luca. De Luca, no, tifos- non so. De Luca, tifosissimo del Napoli. Ha messo bene l'accezione di Higuain, no? Sì, ma sai, ma i tifosi del Napoli dicono: ma se ne vuole andare, ma vada, Masaniello traditore, giù da Higuain, non ci merita, non lo vogliamo più ormai. No, però Roberto, non è che di centravanti di quel livello ci sia una grande abbondanza. È anche vero che, lo ricordiamo, ed è storia recente, con la cessione di Cavani, il Napoli andò a prendere proprio Higuain, oltre a Caleone, andò a fare la spesa al Real Madrid e costruì questa squadra. Deve fare la stessa cosa, ma forse con tempi un po' più stretti. Sì, e per questo io dico che non mi convince questa storia, ma perché non si sono mossi prima? Ma per esempio non hanno chiuso nemmeno per Herrera, che è un ottimo giocatore, no? Per una differenza di quanto? Un paio di milioni. Quando tu sai che comunque te ne entrano una novantina, più i soldi che risparmi dell'ingaggio, che sarebbero state 7 milioni e mezzo, sì, e più i soldi della Champions che ancora devi prendere. Sì. Cioè il Napoli deve investire, assolutamente. Io non sono un matto che chiede alle società che non possono dispendere i soldi, se non puoi non li spendi, certo, e lavori certo, di più. Certo, ma certo, se i soldi ce l'hai, e i soldi li devi investire, perché altrimenti che ci fai? No, ma io concordo con te, con sconcerti che ho letto stamattina. L'affare l'ha fatto De Laurentiis, che ha già riscosso questi soldoni, e con quei soldoni si può comprare chi vuole, perfino Pogba, no? Con i soldoni che ha, può comprare praticamente chiunque. Si tratta di capire a questo punto De Laurentiis di quei soldoni che cosa vuole fare, perché e Sarri che cosa chiede, perché se chiede un centravanti che sia controfigura di Higuain, in questo caso Icardi poteva essere ovviamente di un altro livello, però poteva essere, punto di vista tecnico e tattico, il giocatore in grado di sostituire Higuain. Adesso è vero che con quei soldi vuoi prendere chi vuoi, ma non è che sono moltissimi i giocatori, ed è vero, hai ragione, che il Napoli è in ritardo. Infatti io mi sarei mosso prima, ma comunque per esempio vai in Belgio, no? Il Belgio si è presentato con quattro centravanti, uno più forte dell'altro, qualcuno lo porti a casa. Vai in Francia, un Lacazette, faccio per dire, lo porti a casa, e ce ne sono, Camero, magari te lo potevi portare a casa, ma ci sono dei centravanti, a parte quello che io ho detto che sarebbe il mio ideale se io fossi l'allenatore del Bacca, ma ce ne sono comunque in giro, e non dimentichiamo che il Napoli è Gabbiadini, non si può dimenticare che il Napoli è Gabbiadini, non si può neanche nascondere che il Napoli andrà a fare mercato e tutti sanno che ha le tasche piene, quindi tenderanno a tirare il prezzo. Grazie Roberto. Buon pomeriggio. Ciao Roberto Renga, è sempre un piacere. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Biagio, Renato, Francesco, 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi a WhatsApp. Tutti convocati. Convocati. Biagio da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, Higuain è un traditore, giusto? No, sono un tifoso del Napoli e vedo il passaggio di Higuain come un'opportunità per la nostra squadra, per colmare finalmente il gap tra i panchinari e gli effettivi, i titolarissimi. Sì. È stato sempre un po' il punto debole sia dello scorso anno, ma anche di quello prima. E poi vorrei fare un invito al presidente di lavorare anche sulla struttura societaria e renderla più attraente, più organizzata, in modo da gettare le basi innanzitutto prima per consolidare il secondo posto, ma poi per gettare le basi per dare l'assalto al primo posto. Questo comunque è un progetto a medio e lungo termine che secondo me dovrebbe essere valutato e imbastito, approfittando anche della disponibilità economica, certo, al momento. Certo, no, ma quello è un tesoretto da far fruttare. Il Napoli in passato l'ha fatto, dopo le cessioni di Lavezzi, dopo la cessione di Cavani. Il Napoli è stato bravo a reinvestire quei tesoretti. Io penso che lo farà anche in questa stagione. C'è un altro rischio, eh. C'è un altro rischio. Quest'anno il Napoli ha incassato diversi rifiuti da parte di diversi giocatori, dopo essersi messo d'accordo con la squadra di appartenenza, non riusciva a trovare l'accordo con il giocatore. È chiaro che il segnale che dà in questo momento con la partenza di Higuain è quello di una squadra che fa sì la Champions League, che però al momento si è sensibilmente indebolita e quindi rischia di essere un po' meno attraente. Leggo ora che c'è anche, non è ancora finita la grana Koulibaly, la gente che dice vuole andarsene, ma tranquilli che non va alla Juventus, mancherebbe anche questa. Quindi c'è anche questo rischio, questo pericolo, questa perdita di appeal per il Napoli. D'altra parte il fratello di Guay non ha mai fatto mistero di questo, cioè vuole giocare, e il Pipita vuole giocare in una squadra che sia nell'elite europea, è un top player, vuole essere nell'elite europea, cioè nel ristretto ristorante da 100 euro in cui si mangia con 100 euro e non con 10. Renato, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Senta, io sono più o meno d'accordo con Biagio, che sì, è venuto precedentemente, sì, e anche io vedo questa opportunità. E poi io, forse in De Laurentiis, punterei tutto su Zaza, perché ha delle caratteristiche che più o meno si somigliano, non ha segnato molto diciamo nel passato, però secondo me il Napoli ha una grande capacità, che è quella di far diventare grandi giocatori dei giocatori che o erano giocanti come Higuain oppure come Cavani, li prendono, però poi questi giocatori esplodono, effettivamente segnano. A livello di attacco noi abbiamo creato dei grandi giocatori, ne abbiamo già uno dentro che è Gabbiadini, sì, abbiamo Insigne, abbiamo chiaramente Mertens e Calleon. Secondo me Zaza sarebbe una grande opportunità, una grande scommessa, però io sono sempre convinto che Zaza al Napoli e Higuain a Torino probabilmente farebbero gli stessi gol. Questo è un altro punto, perché c'è chi ha fatto notare come Higuain mi pare abbia segnato 18 gol la prima stagione con Benitez e 17 la seconda, per poi esplodere definitivamente in questa stagione forse ripetibile con 36. Si tratta di capire, è chiaro che la coppia di Bale Higuain è roba da sogno, però non è detto che Higuain possa timbrare il cartellino con questa regolarità anche nella Juventus. Certamente è uno dei top attaccanti mondiali insieme a quelli che conoscete benissimo, però non è detto che Higuain possa ripetere una stagione di questo tipo. Ma io voglio domandarvi, anche qui vorrei una risposta soprattutto dai tifosi napoletani o dagli juventini o dai neutrali o da semplici appassionati di calcio. La domanda è quella che ho fatto prima: ma come lo vedreste un immaginifico attacco napoletano composto da un Tevez di ritorno e, come sappiamo, amatissimo dalla tifoseria juventina, e potrebbe essere una sorta di controsgarbo, se vogliamo chiamarlo così, e magari un Balotelli da rivalutare? L'idea non è mia, è venuta ieri, ne parlavamo in onda, è venuta ieri a Boris Sollazzo, che ben conoscete. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, senti, io volevo intervenire per quanto riguarda Mancini. Sì. Perché tra l'altro avevo sentito Pardo la settimana scorsa dire Mancini è un allenatore vincente, ma secondo me è uno dei peggiori allenatori che poteva arrivare all'Inter. Ha vinto in Inghilterra un campionato, una Premier, l'ha vinta praticamente al 93esimo dell'ultima partita, dopo una campagna acquisti per 300 milioni di euro. All'Inter ha vinto solo perché c'era Ibrahimovic, e poi in Turchia si è visto cosa ha fatto. Ecco. Cioè, io non so come fa un allenatore così a dire che Yaya Touré è uno dei migliori centrocampisti del mondo adesso, era, è uno che gioca praticamente nella metà campo. Era uno dei migliori centrocampisti del mondo, certamente. In questa stagione ha giocato da giocatore un po' a fine carriera. In tutta onestà, io non riesco a dar torto ai cinesi se dicono una montagna di soldi, soprattutto di ingaggio su Yaya Touré, io non ho voglia di metterli, considerata soprattutto l'età. Non sarei invece così d'accordo nel dire che Mancini è un cattivo allenatore. Può piacere o non piacere, stare simpatico oppure no, e la seconda opzione non è da escludere, perché non è epidermicamente simpaticissimo, però che non sia un buon allenatore non sono d'accordo. E innanzitutto, per vincere ci vogliono i grandi giocatori, lo ha fatto al Manchester City, poi chi è venuto dopo di lui, ad esempio lo stesso Pellegrini, non mi sembra che abbia fatto incetta di titoli e di Coppa dei Campioni. In Italia è vero, ha vinto quando c'era Ibrahimovic, ha vinto quando stava nascendo poi l'Inter del triplete, però torna allo stesso discorso: vince uno soltanto, e per vincere ci vogliono grandi campioni. Quindi non abbasserei il livello dei titoli vinti da Mancini. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, senta signor Genta, volevo fare alcune domande. La prima domanda, allora, busta numero uno, mi metto la cuffia. Fare lo fa il Napoli sicuramente, perché prendere Higuain e lasciare andare Pogba, io a quel punto qua mi auguro che Pogba non ci vada. Punto secondo, la domanda seconda, ma lo stipendio di Higuain, che a quanto si è letto è 7 milioni e mezzo netti all'anno, non creerà dei problemi nello spogliatoio della Juve? Questa è un'ottima domanda. Poi? Poi, la terza domanda, io non sono sicuro che la Juve si sia rimportata quest'anno, perché Morata, Pogba e Cuadrado non sono proprio gli ultimi arrivati a fronte dei nuovi arrivi. Grazie. Grazie a lei, Giuseppe. Allora, parto dalla seconda. Certamente la Juventus ha un regime salariale che è molto, molto strutturato, molto preciso. Il tetto massimo era stato fissato per le stelle di questa squadra a 4 milioni e mezzo. Adesso arriva uno che ne guadagna 7 e mezzo. Questo potrebbe portare a qualche disfunzione, potrebbe portare a qualche scampanellata alla porta della sede della Juventus di giocatori che chiedono un adeguamento. Questo rischio esiste, ma credo sia stato ampiamente valutato. Poi non sono d'accordo sul fatto che la Juventus non si sia rinforzata, perché metti Higuain e Dybala, con tutto il bene che si può volere a Mario Mandzukic, Higuain è comunque un'altra cosa. E aggiungerei che sembra abbastanza perfetta, no? Dal punto di vista dell'assortimento, la coppia tra i due argentini. E sì, è andato via Morata, ma per l'appunto è arrivato Higuain. E sul cambio, in linea di massima, la Juventus ci ha guadagnato. Andrà via Pogba, però. Ripeto, Pjanic è un grande giocatore, Piazza è un giovane di grande interesse, perché la Juventus sta costruendo per l'immediato, per il futuro. Non dimentichiamo che è arrivato anche Benazia, che può allungare anche la vita sportiva dei famosi senatori, della famosa difesa più forte d'Europa. Arriverà un altro centrocampista, presumibilmente di grande livello. Dunque, dire che la Juventus sia indebolita mi sembra fuori luogo. Mi sembra, Chiara, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io volevo chiederle il nostro parere su Pogba, perché secondo me è un mago, fa le magie, tutto quel che vuole, però non è un giocatore di quel prezzo. Non è un giocatore, mi scusi, di quel prezzo? Che possa venire pagato quel prezzo. Ma chi è? Risolto mai niente. È un gran giocatore, bello, fa innamorare le folle, però considero un giocatore da 120 milioni. Non so se esista un giocatore da 120 milioni, Chiara, in tutta onestà. Sono talmente tanti soldi che sarebbe tra l'altro il record assoluto del mercato dopo i 100 di Bale, che non so nemmeno se valga 100 milioni, nonostante abbia fatto un grande europeo, no? Un'eccellente stagione nel Real Madrid. Pogba ha il talento per diventare più forte centrocampista del mondo, in questo mi accodo all'illustre platea guidata da Zidane e da molti altri che hanno detto questo. Ha enormi margini di miglioramento, è molto giovane, oggi non vale 120 milioni perché non è il giocatore. Per 120 milioni tu chiedi un giocatore che ti possa istantaneamente cambiare la squadra, no? Puoi pensare a Messi, Cristiano Ronaldo, a questi giocatori qui. Non è da 120 milioni, potrebbe diventare da 120 milioni, ma sappiamo anche come in Inghilterra, insomma, i denari per alcune squadre, o per molte squadre, i denari crescono sugli alberi. E dunque, io fossi da Juventus, come ha detto prima Massimo Mauro, carriola, macchina, aereo, triciclo, tandem, monopattino, per 120 Pogba glielo porto. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo sapere da voi se la seconda maglia della Juve sarà a strisce nero-azzurre. Perché? Sto guardando tutti i nuovi giocatori della nuova squadra e mi sembrano tutti italiani, no? Siccome stando ai media sentiva che va l'Inter straniera e l'Inter qua, la Juve mi sembra che se vuole vincere è sulle stesse orme, tutto qua. Sì. No, ma lei fa riferimento alla poca italianità della Juventus, no? Ma... Sì, però perché credevo tutti italiani, invece no, sono tutti stranieri quasi. Sì, ma no, questo non lo vedo come un problema. Guardi, io come sa, una una logica particolare, cioè i giocatori che si possono comprare, che poi siano italiani, francesi, tedeschi, comunque comunitari, libera circolazione dei professionisti. Non mi scandalizzo sul fatto che ci siano squadre molto straniere, ma questo accade anche nelle grandi d'Europa, perché certo al Chelsea non giocano solo gli inglesi, così al Manchester City o al Manchester United, nel Barcellona, che pure è un caso virtuoso, non giocano soltanto spagnoli o catalani, nel Real Madrid non sono tutti nati esattamente nella città dei Blancos, e questo è un discorso generale. Io ormai i giocatori, era brutto, si torna a parlare di globalizzazione, di queste parolacce qui, io i giocatori li distingo non in base alla carta d'identità o al passaporto, ma al valore che possono avere, e insomma, stiamo parlando di giocatori di estremo valore al di là della carta d'identità. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo, state con noi, perché c'è un Leo Turrini carichissimo. Ragazzi, per me non è il caso. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Convocati. Lewis Hamilton che sta affrontando l'ultima curva per andarsi a prendere la quinta vittoria in carriera in Ungheria. Nessuno come lui per andarsi a prendere la leadership nel campionato mondiale. Lewis Hamilton dopo 11 gare torna ad essere padrone di quello che è suo da due stagioni, due titoli consecutivi, tre in totale, e torna a essere leader davanti a Nico Rosberg che chiude la gara in seconda posizione. Awesome race, Lewis. Mega result, well done, mate. Great stuff. Great job, Lewis. Fantastic drive. As always, guys, thank you so much for all your hard work this weekend and everyone back in the factory. This is a great result for the team. I appreciate all the hard work. Thank you. Questa squadra, lo dico, è forte ed è unita. Il morale basso è tutta una storia che qualcuno mette in giro per fare in modo che ci venga il morale basso, ma noi non ci arrendiamo mai, mai, mai, mai. Eccoci tornati. Beh, ieri l'Ungaroring non ha raccontato favole nuove, né d'altra parte ce ne aspettavamo. Ha raccontato invece di nuovo di Hamilton e dell'arte del sorpasso. Hamilton che ha dormito almeno per il primo terzo della stagione, se l'è presa comoda e adesso ha messo la freccia, ha vinto anche la corsa di ieri, ha superato Rosberg che ha appena rinchiostrato il contratto e non ha festeggiato nel migliore dei modi. L'arte del sorpasso che non è riuscita all'idolo del mio amico Leo Turrini, e cioè Kimi Raikkonen, che peraltro ha fatto una grande corsa, ha stampato il giro più veloce, una grande rimonta. Insomma, io scommetto che Turrini vorrà dare a Raikkonen il voto più alto. Ma è fuori discussione, ecco. Ma è progetta. Siamo fermi qui sulla Pero Cormano, dove purtroppo non riesce a ripartire la vecchia multipla metano di Sergio Marchionne, che come tu sai ti aveva annunciato orizzonti di gloria, e ci ritroviamo invece a rincorrere il furgoncino dei bimitari. Questa è un'estate veramente triste per noi ferraristi, ma meno male che Kimi c'è, perché se non altro abbiamo evitato di addormentarci durante il Gran Premio di Budapest, grazie alla prestazione, devo dire, oggettivamente superba del più vecchio pilota in pista. Poi guarda, c'è stato questo duello rusticano, no? Con Verstappen, che aveva quasi un senso omerico, perché erano il più anziano e il più giovane driver, no? Tu lì hai visto un conflitto generazionale strepitoso. Poi possiamo discutere per ore se Verstappen è stato troppo furbo, troppo duro nell'impedire il sorpasso a Raikkonen, ma è stato veramente un momento degno della storia migliore della Formula 1. Dopodiché, e lo dico con tristezza, il vecchio e il bambino stavano poi lottando per il quinto posto. Certo, no? Certo, certo. l'unica cosa che si può dire, senza ombra di discussione, possiamo discutere per ore su quel contatto, ma non ne abbiamo neanche voglia in fondo, è che il bambino Massimino ha due belle palle. È un bel manico, guarda, questo, è un bel manico il bambino. Ha tutte le doti e le virtù del predestinato, ha già mostrato le sue qualità strepitose. Prendi la classifica mondiale piloti, è incredibile, perché Verstappen ha fatto i primi quattro Gran Premi con la Toro Rosso, che con tutto il rispetto, insomma, è una mezza carriola, no? Sì. Quindi ha quasi quattro gare in meno rispetto ai piloti Mercedes e Ferrari, e lasciando stare Hamilton e Rosberg, li ha presi sia Ricciardo che Vettel che Raikkonen, no? Hanno più o meno gli stessi punti di Max, che è tutto sua madre. Ieri avrai notato che, pur di non dare meriti al padre, in un team radio ha citato sua nonna, sì, perché sì. A un certo punto gli hanno detto: ma stai attento a non consumare troppo le gomme, e lui ha risposto: tranquilli, sto guidando come mia nonna. E quindi io ho sempre detto che Verstappen è tutto la mamma, e anzi addirittura adesso tutto la nonna. Il papà zero, visto, invece. Ma io, il papà, ragazzi, cioè, ahimè, ho un'età che ero già... Se voi mi dite qui è una questione di DNA, io vi querelo tutti, di DNA paterno, ecco, nato, assolutamente. Marchione sempre fermo, e questo rapero Cormano, la coda si sta allungando, lo dico agli amici di Radio 24, purtroppo la multipla metano del presidente cioè, sta tentando di superare questo furgone Red Bull, no? Ma ragazzi, il dato politico, il dato politico, come piace dire al mio amico Pardo, che è in vacanza chissà dove a farsi cullare dalle onde, il dato politico insieme a Icardi e Vandanara, di cui poi parliamo, il dato politico è che comunque a proposito dell'arte del sorpasso, è ufficiale, il sorpasso dei bibitari sulla rossa è stato effettuato. Un momento, lei, caro gente, ascolta un po' troppo Barisoni lì, Focus Economia, deve essere più preciso. Abbiamo ancora un punto di vantaggio. Vabbè, ma questi sono questi, però lei non t'arrampica, questo è un, questa è un'arrampicata su una parete di specchi, come dai. Ha detto Wanda Nara ai cinesi che controllano l'Inter, carta canta, hai capito? E Villa dorme. Allora, se tu mi dici che la Red Bull ha colmato il gap nei confronti della Ferrari, e anzi l'abbiamo vinta virtualmente, però dai. In classifica abbiamo un punto 224 a 223, scommettiamo. Perfetto. Io e te che in Germania si consuma il sorpasso. Sì, scommettiamo, non si consuma perché c'è Raikkonen. In Germania, grazie al leggendario Kimi, la Ferrari resterà davanti alla Red Bull. Guarda cosa ti dico io. Senti, lo so che sei di parte, quindi chiederlo a te è un po' come chiederlo a sua nonna, di Kimi Raikkonen, ma in questa stagione a me ha convinto più lui di Vettel. Guarda, allora, io sai che a proposito di Kimi sono sempre stato, voglio dire, un convinto sostenitore, ma mi sembra che adesso, con colpevole ritardo, stiano tutti venendo dalla mia parte, no? Perché l'evidenza parla. Il problema tante volte è che non basta avere ragione, bisogna anche farsela dare, e a me stanno dando ragione, insomma, con molto, molto, molto ritardo. Però sicuramente quest'anno in gara, Raikkonen è quasi sempre stato più efficiente di Seb, che invece in qualifica ha comunque un vantaggio suo. Ora, questo può dipendere da tante cose, dall'adattamento alla macchina, credo io anche da una, immagino, temporanea crisi di fiducia di Vettel. Sì, quella è l'impressione che ho io. Che rimane un grandissimo, però quando ha capito che questa SF16H, tu chiedimi cosa vuol dire H, cosa sta H sta per? Hai vinto mai? No, perché questa macchina, siamo a metà campionato, non ha ancora toccato palla, e temo che si arrivi alla fine della senza stagione toccare palla, con zero successi. Ecco, io ho avuto l'impressione che Vettel, ma ripeto, è legittimo, quando ha compreso che comunque non è una vettura da mondiale, abbia subito un contraccolpo, perché lui all'inizio del campionato era convintissimo, e devo dire le primissime prestazioni incoraggiavano questa supposizione, era convintissimo di potersela giocare. Adesso deve prendere atto, forza, no? Il capo gli ha detto vinciamo il mondiale, no, che deve ma, fare? Insomma, però vedi anche lì adesso Marchione è sempre fermo sulla Piero Cormano, non riesce a sorpassare il furgoncino Red Bull. Anche lì, se vogliamo proprio essere completi nella valutazione, i primissimi gran premi dell'anno la Ferrari era molto vicina alla Mercedes come prestazione, non davanti, tipo in Australia in qualifica c'era 2-3 decimi, sì, certo, dopo la prima curva era primo Vettel, secondo Raikkonen, quindi effettivamente la base, diciamo così, sembrava molto buona. Il punto è sempre quello, ormai da anni a Maranello, quando bisogna sviluppare il monoposto, no? Quello che si chiama l'aggiornamento, l'evoluzione, che si fa tutto per il divieto dei test in galleria del vento, al computer, al simulatore, gli altri crescono, vedi Red Bull, siamo sempre stati alla Mercedes che sono altro pianeta, e la Ferrari no, cioè la Ferrari a primavera aveva mezzo minuto di vantaggio ogni Gran Premio sulla Red Bull al traguardo. Vedi che mi hai ragione. Il dato politico, tu mi dici che ascolto troppo Barisoni, ma il dato politico è questo: il sorpasso è stato effettuato. Futuro presidente dell'Inter, Vandanara, no? Futuro presidente dell'Inter. Ma io, da quello che capisco, vi ascolto, sento, mi sembra di capire che all'Inter ormai l'unico parere che conta è quello della Vandissima. Perché sarà lei a deliberare se Icardi resta nell'azzurro, va al Napoli, hai capito? Allora i cinesi da Nanchino, dopo aver detto forza Ida, dovrebbero fare, fatto 30, fatto 31, tanto all'Inter non si capisce più un accidente, facciano la grandissima presidente, e dopo ci si diverte. Eh sì, è chiaro, adesso se poi ti porta via Maurito, ti porta Maurito tra le braccia di De Laurentiis, magari ti arrabbi per la tua Inter. Dall'altra parte io te l'avevo detto, Leo, oggi vedi la notizia che comincia a trapelare, è questa. L'idea, secondo me, gliel'abbiamo data noi, e quindi ho una mezza idea di chiedere il copyright, però vedi che anche De Laurentiis ha capito tutto e ha detto, va bene, prendiamo Maurito... 40, i cinesi dicono no, nemmeno per 60, eccetera, eccetera. I soldi ci sono, non mancheranno dopo che è andato via Higuain. Vedi che c'è anche un'offerta per il cinepanettone per la signora Vandanara, che è tua agente, peraltro. Ricordiamo, stiamo trattando con lei per avere i servizi Leo Turrini tutti i giorni dalle Olimpiadi. È un osso duro, ma qui siamo di fronte a una genialata di De Laurentiis, perché le sinergie, no, si dice sempre così, rappresentano straordinarie occasioni di sviluppo per le aziende. Allora, lui ha il Napoli, è il produttore dei cinepanettoni, si mette Icardi al posto di Higuain, Vandanara là con Christian De Sica. Con De Sica, guarda che tu fai un botto, fai bingo, hai capito? Però tutto questo non lenisce le sofferenze di noi interisti, perché francamente qui io non lo so, tu sei più informato di me, Mancini cosa fa? Mancini, abbiamo parlato prima, ho la sensazione che sia in via d'uscita, ma perché l'hanno esautorato di poteri che aveva sempre esercitato. Il mercato lo faccio io, ti ricordi un sacco di telefonate ai giocatori, poi ha detto voglio Yaya Touré, no, è vecchio, voglio Candreva, no, Candreva più di 20 non diamo perché è vecchio pure lui, vogliamo quelli giovani. Si tratta di capire da chi arrivano questi diktat. Se poi i cinesi pensavano così, senza fare tanto lungo, toglievano il cellulare a Mancini, sì. Non c'era più nemmeno l'occasione di chiamare questo o quello per convincerlo a vestire la maglia nera azzurra. Certo. È abbastanza preoccupante, perché poi se estendi anche al discorso Milan, non lo so, questi cinesi, per carità, però io rimango, sono nostalgico, è vero, in Premier League ormai tutte le proprietà dei club sono estere, persino la squadra di Ranieri di un thailandese, no? Poi conosciamo il Manchester City, il Chelsea, lo United, sì, è il futuro, anche già il presente, la globalizzazione. Però se guardiamo da un punto di vista nostro, ad esempio a me non pare che a Roma siano entusiasti degli americani, no? A Roma è una città molto particolare, non sono entusiasti degli americani, detestano Milano, Tito. Sì, ma a Milano, a Milano tu cogli una frenesia entusiasta per queste proprietà cinesi già realizzate o annunciate del Milan e dell'Inter, non lo so, non lo so. Non ti piace, l'ho capito, ma non piace a molti, no, a molti romantici come te. Senti Leo, un'ultima cosa che riguarda le Olimpiadi, pare che un po' di russo lo sentirai a Rio, sì, perché visto, ci ho detto no, aspetta, non tutti fuori i russi, decidiamo. Beh, lì caso, sai, onestamente, per caso, onestamente era al di là, insomma, delle prese di posizione draconiane, moraliste. Non era semplice, perché dire escludiamo un'intera nazione da tutta l'Olimpiade. A me veniva in mente un brano della Bibbia, quello su Sodoma e Gomorra, no? Quando Abramo dice al Signore, ma se ce ne fossero solo 50 sani, no? Salveresti la città? Sì, e arriva fino a dirgli, ma se ce ne fossero solo 10, salveresti la città? E Dio risponde, sì. E qui è la stessa cosa, se ci sono 30-40 tiratori con l'arco russi, no? Certo. Che sono puliti, che hanno sempre rispettato i valori dello sport, cosa facciamo? La pena draconiana non può essere la via giusta. Li escludiamo per colpe di altri. Io credo che il CIO abbia agito con saggezza in questo caso. Grazie Leo. Ci sentiamo prestissimo. E a presto. Ti abbraccio forte. Saluta Vandanara e Marchionne. No, salutamela tu, è tua gente, non ancora la mia. Con mano, Marchionne. Non riesco a sorpassare il furgone Red Bull, un dramma. Niente, ma diamo il carro attrezzi. Ciao sì, Leo. A presto, ciao, grazie. Presto. E dopo questa bella chiacchierata con Leo Turrini, io andrei a fare una chiosa al Tour de France che ieri ha incoronato Chris Froome. Oggi leggo il titolo di Repubblica, di uno dei cantori storici del Tour de France, Gianni Mura: povero tour per ragionieri, più tecnologia che poesia. Pier Augusto Stagi, come al solito, ce lo racconta il Tour de France, il Giro d'Italia e la nostra voce del ciclismo. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E abbiamo anche, a proposito di Olimpiadi di maglie azzurre, Davide Cassani, il nostro CT. Ciao Davide, grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ti lascio subito a una domanda di Stagi, che è cattivo, cattivissimo. Sono molto cattivo. Potrei chiedergli la domanda più cattiva e vinciamo il loro olimpico. Guarda, stiamo è lavorando cattiva, per quello. Stiamo lavorando per voi, È molto, molto cattiva, sai. Abbiamo un percorso dove possiamo dire la nostra, poi vincere è difficile, poi in una corsa in bicicletta i fattori che determinano il successo sono tanti, no? Però sono convinto di avere un'ottima squadra, omogenea, affiatata, e sono convinto che possiamo dire la nostra. Poi i colombiani, i francesi, i britannici, i spagnoli, un portoghese, un irlandese, mettiamocene altri, sono forti, però... Anche gli altri, secondo me, guardano Nibali, Aru, i nostri, con particolare attenzione. Sì, e questo tour che cosa ti ha detto in prospettiva Olimpiade Mondiale? Mondiale presto, in prospettiva olimpica, Davide, da questo tour quale risultanze hai tratto? Così, ma contraddittorie o incoraggianti? Che Valverde è un fenomeno, perché tutte le volte che prende il via è lì a lottare o per sé o per gli altri, ha corso per Quintana ed è arrivato sesto, che Daniel Martin è forte, che è il campione del mondo come Rui Costa è forte, e tutti quelli di classifica sono forti, perché alla fine su un percorso del genere, parlo di Rio, con una salita di 8,5 km da fare tre volte nel finale, alla fine viene fuori il fondo, la resistenza e la capacità di andare in salita che uomini di classifica come quelli del Tour possono fare. Aru e Nibali ti hanno soddisfatto? Allora, Nibali, sai, è da gennaio che abbiamo deciso questo programma. Oggigiorno fare giro e tour per fare classifica è molto difficile, perché vai a scontrarti al Tour con corridori che preparano solo quello. Quindi tu non puoi pensare di andare a batterli, e quindi devi fare delle scelte, no? Oggi più di ieri, nel ciclismo di oggi, nello sport di oggi, e quindi l'unica possibilità per Vincenzo Nibali era quella di cercare di vincere il giro, e l'ha vinto, prendere un attimo di respiro e prepararsi al Tour per Rio. Per quanto riguarda Fabio Aru, è stato bravissimo fino a due giorni dalla fine, ha avuto una giornata no, può capitare a tutti. L'hanno avuto anche i grandi campioni del passato, le giornate no, quindi non possiamo crocifiggere Fabio Aru per questa giornata no, anzi, possiamo dire che alla fine comunque questo tour anche per lui è stato importante, perché fino a 3 giorni fa gli era tutto, tutto bene, ha vinto una vuelta, 2 podi al giro, e sono convinto che la giornata no dell'altro giorno si serva lui per diventare ancora più forte. E sono convinto che Orio sarà comunque una pedina fondamentale per me. Hai capito, Stagi? Sei d'accordo? Sì, sono, io col CT sono sempre d'accordo, a parte le battute. Sono d'accordo perché Fabio era il primo del Tour de France e certo tutti ci avevamo fatto la bocca buona, in primis proprio Fabio, che ci è rimasto malissimo dopo la debacle di Morzin. Era un uomo finito il giorno dopo, veramente. Ho parlato anche con Martinelli, ho detto vabbè, ok, una giornata no, basta, chiudiamola lì, dimentichiamoci, tu non l'hai vissuta. Invece lui è lì che ancora si macina, perché ha un orgoglio, soprattutto, ragazzi. Lo so, però i grandi campioni sanno anche dimenticare alla svelta. Sì, i grandi campioni, però i grandi campioni in ogni caso preparano per 6-7 mesi un grande appuntamento, sacrificando tempo alla famiglia e a tante altre cose, e in una giornata ti giochi tutto e ti girano, come se ti girano. Prova a chiederlo a Davide, credo che te lo racconti molto bene. Girano anche a Vincenzo, ad esempio. Vincenzo non lo dirà mai, perché ha sposato, giustamente, certo che è convinto, ha sposato fortemente il progetto Rio, su questo non ci sono dubbi, però per il carattere che ha Vincenzo, andare al tour e beccare legnate per 2 settimane, beh, non è stata facile. Lì ha dimostrato di essere un grande, perché tutti, moltissimi, io per primo sono stato sollecitato da tantissimi tifosi dicendo ah, ma lui, la sua storia, con quello che rappresenta, ha vinto 4 grandi giri, non può andare lì a fare il turista, non può. E tu credi che un atleta della caratura di Vincenzo Nibali non pensi a questo? Però tu metti in programma anche il rischio della faccia per dire io voglio essere là quel giorno, il 6 di agosto, là a lottare con i migliori del mondo. E credo che ci sarà, certo, vincere bisogna avere tante cose, soprattutto gambe, testa e fortuna, perché queste sono le 3 componenti essenziali per vincere una gara importante, o come il Tour, o come un mondiale, o come un'Olimpiade. Chiaro. Però Vincenzo ha dovuto fare anche 3 settimane di sacrificio, perché sì, stare nelle rete non piace, soprattutto chi è abituato a stare davanti. No, di sofferenza. Devi stare lì e prendere le pallonate fino a quando passa. Ma io voglio chiedere al CT se è preoccupato di questi aspetti psicologici, di queste tracce che il tour può lasciare. Ma no, perché alla fine, ripeto, per entrambi, parlo di Fabio Aru e Vincenzo Nibali, il secondo obiettivo erano i giochi lì. Uno ha centrato il primo obiettivo, l'altro non l'ha centrato. Uno ha quasi 31 anni, l'altro ne ha 26. Uno ha vinto un tour a 2 giri, una vuelta, l'altro era il suo primo tour e ha già vinto una vuelta. E quindi, secondo me, proprio il ciclismo ti insegna comunque a beccare botte nei denti, a rialzarsi e ripartire. Tra l'altro, per Fabio c'è proprio questa grande possibilità di andare a casa, cambiare la valigia e ripartire per un sogno olimpico, perché alla fine comunque partecipare alle Olimpiadi non è una cosa da poco, no, è un sogno per tanti, tanti ragazzi, anche professionisti di oggi che guadagnano soldi. Quindi in ogni intervista che io ho sentito, Aru e Nibali parlavano di Olimpiadi, e quindi questo è molto importante per me, per il mio gruppo, per noi alla fine. Io ho capito che sei fiducioso, Davide. Sono fiducioso perché alla fine, appunto, anche tutte queste critiche per Nibali, ma alla fine la corsa l'ha onorata, non ha fatto classifica, ma ha corso per la squadra, ha cercato la vittoria di tappa, non si è ritirato come hanno fatto tanti al Giro, tanti al Tour. Questo vuol dire onorare una corsa e anche aiutare i compagni di squadra. Ultima cosa, sei d'accordo a proposito di Tour su questo titolo che sintetizza il pensiero di Gianni Mura? Povero Tour per ragionieri, più tecnologia che poesia, poche emozioni, corridori senza coraggio e strapieni di informazioni in tempo reale, ma ora la corsa è in crisi. Parli con me? Sì, con te, Davide. Guarda, il problema qual è stato? Che c'era un corridore più forte nella squadra, nettamente più forte rispetto agli altri. Dove vai? Quando gli altri erano più o meno tutti allo stesso livello, quando nel ciclismo di oggi, purtroppo per punteggio, per quant'altro, il piazzamento è importante, è naturale che tanti corrono per un piazzamento e non rischiano assolutamente nulla. E quindi nessuno è riuscito a fare qualcosa in più. L'unica squadra e l'unico corridore alla fine che ha cercato di mettersi un po' di traverso è stata l'Astana, poi anche qui hanno beccato critiche. Se nella tappa di Morzin Fabio Aru fosse stato in condizione, avrebbe, come era nell'intenzione di Beppe Martinelli, a cercare, sarebbe stata una tattica perfetta per dirsi, perché c'erano due corri davanti e quindi c'erano tutte le possibilità per fare qualcosa di interessante. Tutti gli altri hanno corso per un piazzamento, perché probabilmente le forze erano quelle. Grazie Davide, in bocca al lupo per Rio, ci sentiamo da laggiù. Grazie, grazie CT, grazie Davide Cassani, e chiudo con Pier Augusto Stasi su questa considerazione relativa al complesso del Giro d'Italia, considerazione che abbiamo già fatto. Mentre le agenzie battono del nuovo incontro in corso tra il Napoli e gli agenti di Icardi, ultima ora, penso che ne torneremo a parlarne domani. Allora, giro deludente o no, Pier Augusto? Giro poco divertente, giro per ragionieri. Ma guarda, per certi versi Gianni Mura, col quale ho parlato e discusso, ha ragione, perché poi il risultato finale, il percepito, è che è stato un tour noioso. Dall'altro lato c'è stata battaglia veramente come nessun'altra corsa, questo è perché c'era un livello, c'era la qualità. E questo è un grande classico. È vero, il pericolo qual è? Il pericolo è quello che comunque giustamente sottolinea Gianni Mura oggi su Repubblica, che è un ciclismo molto computerizzato. Chris Froome ne è il simbolo, no? E che pedala in maniera un po' sgangherata, con questa testa che pendola continuamente, guarda sempre verso il basso, verso l'SRM che ti segnala i watt. Ormai è un ciclismo che sanno perfettamente che a tot velocità possono recuperare tot secondi in tot chilometri. È una questione matematica, è come quando lasciano andare via la fuga, lasciano andare e dicono lasciatela andare fino a quando arriva a 8 minuti, poi comincia a camminare e sanno che a 20 km dal traguardo viene annullata la fuga. È matematica. Purtroppo cosa serve per scardinare questa scienza? Il genio, la fantasia, il colpo destro. Ci vuole la fantasia, ci vogliono dei corridori che hanno questo. E chi è che sono questi corridori che c'erano? Ce ne sono molto pochi. Alberto Contador, che è caduto, Nibali, che è venuto qua a fare qualcos'altro, lo stesso Aru, che è ancora troppo giovane, quindi ci vogliono quei due o tre elementi che hanno un qualcosa di più. In questo tour, insieme a Nairo Quintana, la grande delusione, grande sconfitto, sono mancati. E quindi immancabilmente questo Froome per me è stato... Froome ha fatto tutto, ha ucciso la corsa e l'ha tenuta anche viva, l'ha uccisa con la sua squadra, ma l'ha tenuta viva con, in che occasione? Con l'attacco in discesa, con la corsa a piedi sul Mont Ventoux, con l'attacco controvento, cioè alla fine in qualche maniera ci ha voluto aiutare a non addormentarci, sì, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto quello che poteva, grazie Pier Augusto. Grazie a voi, grazie Pier Augusto Stasi. Ho 20 secondi per Fulvio da Bari, che sta aspettando un po', mi spiace, ma voglio almeno salutarlo. Buongiorno Fulvio. Ciao Carlo, ciao. Grazie per la convocazione. Velocissimo, sì. una constatazione. Qualche anno fa ti chiesi cosa avrebbe portato alla Juventus Società allo stadio. Io sono un abbonato da quando è nato lo stadio, a distanza di 5 anni adesso l'abbiamo capito. Sì. Non solo lo stadio però. Non solo lo stadio, ma sicuramente lo stadio a livello di organizzazione societaria, economica, di management e commerciale e marketing, certo, lo stato. Certo. Oggi abbiamo una Juve, sì, un po' più internazionale, comunque con la difesa italiana, delle fasce brasiliane, un centrocampo tedesco, un attacco stellare argentino. Ti chiedo, se parte Pogba, sicuramente partirà, perché la Juve si deve autofinanziare. Quale sarebbe il profilo per te da inserire in un centrocampo in cui sappiamo che comunque sia Marchisio che Dira sono quasi a mezzo servizio? Grazie Carlo. Grazie a te. A me viene in mente subito un nome, non so se sia sul mercato, so che ha il mal di pancia a Barcellona, si chiama Rakitic, però è il primo che mi viene in mente e mi sembra un giocatore, sarebbe un giocatore perfetto per completare questo mosaico. Ci fermiamo, ma torniamo domani. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, al Vise Fassone in redazione e a Giorgio De Luca, il nostro autore. Ciao a tutti. Signori, alla prossima.